Capitolo 31. Per generali e caporal maggiori, il principio tecnologico fondamentale è la catena di comando. Una struttura efficace per le campagne militari, perché un uomo ne governa 10, e ognuno di questi ne governa altri 10, e in 6 passaggi un ordine può coinvolgere più di 1 milione di soldati e concentrarli in un punto per la difesa o l'attacco. Quando invece si pretende di organizzare così un'intera nazione, con un numero di abitanti 150 volte superiore, la catena si indebolisce man mano che si allunga. Tutto sembra funzionare perché l'ordine parte e arriva lo stesso, ma in realtà non viene compreso. Lo si esegue controvoglia o con obbedienza cieca, perché tra il primo e l'ultimo anello non c'è più comunione di intenti. Si accumulano errori e lamentele, accuse di arbitrio e insubordinazione. Le energie si disperdono e le contraddizioni aumentano, finché il sistema, come tutte le organizzazioni aggressive, va incontro al collasso. Bogdanov osserva dalla finestra il traffico sulla Yakimanka, le bandiere che sventolano dagli autobus stracolmi, i passeggeri in piedi sul tetto dei tram. Drappelli di marinai sfilano tra applausi e incitamenti. Il nevischio che scende fin dal primo mattino si scioglie sotto i cingoli dei carri armati in manovra, giunti dalle caserme a sud della città, sotto gli stivali dei soldati, che si dirigono alla parata con le baionette inastate e i cori sulle labbra, tra squilli di tromba e colpi di tamburo, sotto le ruote delle autoblindo e gli zoccoli dei cavalli, che trainano sul selciato pezzi d'artiglieria. «Esco», dice rivolto a Natalia, che sente aggirarsi nella stanza accanto. «Non andranno insieme», l'ha preteso lei. «Voglio restare con Danny e poi mi fanno male i piedi». Lo saluta sull'uscio, inquieta. «Ma non dovrebbe preoccuparsi». Come dice il proverbio, grandi nuvole, piccola pioggia. In strada, galleggiano sulle teste i gonfaloni delle fabbriche e le lettere che compongono il nome di Lenin, rimescolate in tutti gli anagrammi possibili dal flusso della folla lungo i marciapiedi. Attorno a un venditore di spille con la stella rossa e il numero 10 si forma un capannello che restringe il passaggio. Nella calca, Bogdanov si ritrova accanto a un uomo che regge un cartello. «Per l'unità del partito leninista», recita la scritta in cima al bastone. I pochi a farci caso non restano colpiti né perplessi. Nessuno riconosce il vero bersaglio della frase. Nessuno sospetta che chi se lo porta in giro deve essere un membro dell'opposizione. L'auspicio, così banale in apparenza, è un'accusa implicita contro Stalin, colpevole di voler allontanare i più fedeli seguaci di Lenin. Se sono questi gli slogan che dovrebbero guastare la festa e innescare la rivolta, il vecchio compagno Koba può dormire sonni tranquilli. Bogdanov riprende a camminare verso il fiume. Altri cartelli dell'opposizione si alzano sopra i berretti e i bambini sulle spalle dei padri. Per una vera democrazia operaia. Per un comitato centrale leninista. Deve essere un modo per riconoscersi a vicenda senza farsi individuare, oppure una strategia sottile per aggregare proseliti. Chi non sfilerebbe dietro slogan del genere? La città è coperta di parole. Gli altoparlanti sporgono dai lampioni come fiori in cima a uno stelo. Chiamano a raccolta il popolo sovietico, con inni e inviti alla adunata. Ogni finestra è una bocca, ogni palazzo un palco di drappi rossi e caratteri maiuscoli. Non c'è mezzo di trasporto che non abbia un aforisma sulla fiancata, una massima sul tetto in forma di bandiera. Esiste un modo per celebrare le ricorrenze che non trasformi chi partecipa in un gregge? Bisognerebbe chiederlo a Danny. Ma lei è rimasta a casa per colpa di un rialzo di temperatura. La gita allo zoo le ha fatto prendere freddo. Al risveglio scottava e aveva le gote insolitamente rosate. Natalia ha insistito per tenerla a casa. Meglio così. Quella ragazza ha un disperato bisogno di credere nel socialismo nacuniano e in quello terrestre. La realtà le va somministrata a piccole dosi. Portarla in mezzo a compagni che si insultano mentre festeggiano la rivoluzione sarebbe una terapia d'urto con effetti imprevedibili. Sulla Masezhnaya, come carri allegorici, avanzano trattori con grandi rimorchi, carichi di modelli in scala dei progressi dell'Unione. Locomotive, fornaci, navi rompighiaccio, presse, turbine elettriche. Il comunismo è il potere dei soviet più l'elettrificazione di tutto il paese. La frase di Lenin riempie gli spazi tra un prototipo e l'altro. Bogdanov si alza sulla punta dei piedi e scorge anche un missile di latta, ma quello sparisce dietro la curva. E lo lascia col dubbio di aver visto una bomba, pronta per la prossima guerra, o un velivolo spaziale per esplorare il cosmo. Sul balcone del Grand Hotel de Paris, all'angolo tra la Tverskaya e Ochotny Riad, sono appesi tre grandi ritratti, uno per ognuna delle finestre che si aprono sulla curva della facciata. Troppo lontani per riconoscerli, ma è facile indovinare chi potrebbero essere. L'hotel ospita funzionari e membri del partito. Il governo l'ha requisito, insieme ad altri alberghi, dopo lo spostamento della capitale da San Pietroburgo. L'edificio è diventato la 27esima casa dei Soviet, affacciata sull'incrocio più caotico di Mosca, davanti all'ingresso della Piazza Rossa. Nelle sue stanze, spesso condivise, abitano parecchi membri dell'opposizione. Ecco perché non ci vuole molto per immaginare a chi appartengano le facce nelle grandi cornici. Trotsky, Zinoviev e Kamenev, il terzetto che combatte Stalin e la destra del partito. Bogdanov si avvicina, la calca si fa più fitta, le voci salgono di tono. Sotto ai ritratti un lenzuolo legato alla ringhiera dice che bisogna realizzare il testamento di Lenin. E infatti, a sorpresa, uno dei tre volti è quello accigliato di Vladimir Ilyich. Manca invece Kamenev. Chissà perché. Lo schiamazzo diventa clamore quando in mezzo ai tre compare un tizio rasato, in carne e ossa, completo di occhiali a molla e pizzetto. Il compagno Ivar Smilga, spedito nell'estremo oriente sovietico a occuparsi delle miniere di stagno. «Tornatene a Khabarovsk!» grida una donna col fazzoletto in testa. L'uomo si appoggia alla balaustra, sporge il busto sulla strada ormai gremita e riversa sulla folla frasi battagliere. «Basta!» gli intima qualcuno. «Siamo qui per festeggiare!» si lamenta un vecchio, mentre molti alzano il pugno in segno di approvazione o minaccia. Bogdanov è preso in una tale calca che nemmeno volendo potrebbe sollevare il braccio a salutare o maledire l'oratore. Poi, visto che quello non desiste, un gruppo di operai molla lo stendardo della fabbrica e a forza di gomitate si avventa su un carretto di primizie dell'agricoltura sovietica. Volano patate, cavoli e zucche intere. Dalle finestre dell'Hotel Nazionale, che abbraccia con sei piani l'angolo opposto dell'incrocio, piovono posate e cubetti di ghiaccio sul terrazzo dei ribelli e sulla strada, ovvero sul tappeto di berretti che la ricopre senza il minimo spiraglio. Un cucchiaio di metallo impatta una nuca proprio di fronte a Bogdanov. La testa sanguina, l'uomo tampona la ferita con i guanti di lana. Ora di allontanarsi, ma la ressa non lo permette e anzi trascina i corpi in un gorgo verso il portone del palazzo. «Dobbiamo unire le forze contro i contadini ricchi, gli imprenditori privati, i burocrati e la destra!» strilla Smilga dal balcone, ma ormai le parole si distinguono appena nel baccano di insulti, chiamate alle armi, grida di dolore ed aiuto. Bogdanov è bloccato eppure si muove. Toraci e colpi d'anca lo sospingono. In direzione opposta alla forza che lo costringe, oltre i primi flutti di schiene, vede una barriera di randelli e calci di fucile, dritti e impettiti per erigere un varco e di quando in quando calati con forza per ottenerlo in maniera più spiccia. La folla cerca di allargarsi, di indietreggiare. Si respira fatica, si grida. Gli aggressori si infilano in un pertugio, lo allargano e finalmente prorompono come un'inondazione. Raggiungono l'ingresso del Grand Hotel e picchiano i bastoni sulle ante di legno. Le forzano con una sbarra di ferro, mentre tengono a distanza chi vorrebbe intervenire. Smilga si affretta a concludere il discorso e cede la posizione a tre compagni agguerriti che bombardano gli assedianti con piatti e sedie. Il portone è ormai dischiuso quando Bogdanov riesce a sfilarsi e a scivolare verso le guglie di Santa Parasceve. Si massaggia le costole e riprende fiato. Affretta il passo tra i corpi più radi, indeciso se svoltare nella Piazza Rossa o accontentarsi di quello che ha visto. Il baccano scema, le grida si disperdono. Di fronte alle colonne della casa dei sindacati sembra di essere in un quartiere diverso, come se una parete di vetro fosse calata dallo spazio a isolare i tafferugli sotto la 27esima casa dei Soviet. Nella relativa quiete che regna sullo slargo, tra i banchi di verdura e le macellerie chiuse per la festa, spicca il motore di un'auto. A giudicare dal rombo, viaggia a velocità sostenuta. Strano, con tanta gente sulla strada. Un ragazzo attraversa di corsa i binari del tram. Avrà l'età di Kotick. L'auto sbuca tra due carretti del mercato, parcheggiati coi relativi cavalli. Rischia di investire un'anziana con una bimba per mano. Due soldati si fanno da parte con un balzo all'indietro. Frenata brusca sul selciato fradicio. a due passi da Bogdanov. Tre uomini scendono al volo, gli sportelli restano aperti. Tagliano la strada al ragazzo. Lui prova a scartare, lo spingono a terra. Il primo calcio lo colpisce su un fianco, il secondo allo stomaco. «Fermi! Cosa fate?» Bogdanov strattona una giacca di pelle nera. L'uomo si volta, mentre i compari ammanettano il ragazzo e lo costringono a rialzarsi. Il poliziotto non fa in tempo a parlare che un cartello gli si abbatte sulla fronte. «Fuori i burocrati dal partito!» dice la scritta sul legno. Accorrono altri giovani, che si lanciano sui tre sbirri. Bogdanov cerca di allontanarsi controcorrente, ma viene travolto da un ragazzo molto più alto di lui. Cade all'indietro, batte la schiena sul selciato. Il tacco di una scarpa gli schiaccia il gomito, poi un paio di stivali inciampa sulle sue gambe e un uomo gli crolla addosso con tutto il peso. Si rannicchia, le ginocchia contro il petto e quando tenta di rialzarsi una fitta al braccio lo costringe a terra, in mezzo alla danza scomposta di decine di suole. Si gira sul fianco opposto e sente l'umido del nevischio attraverso la stoffa del cappotto. Qualcuno lo aiuta a mettersi in piedi, sostenendolo sotto l'ascella. «Per di qua!» gli sussurra. Intravede la bocca e il naso, la fronte coperta dalla visiera del berretto. «Avanti!» lo tira e Bogdanov inquadra dietro di lui una seconda automobile nera, col motore acceso e la portiera spalancata. Deve essere sopraggiunta quando lui era a terra. Punta i piedi, ma i ciottoli bagnati scivolano sotto gli stivali. Un uomo scende ad aiutare l'altro. La rissa di calci e bastoni rischia di inghiottirli. L'uomo che lo ha rialzato ora lo spinge nell'automobile. «Entra, o ti travolgeranno!» dice in un sibilo. Un attimo dopo sono dentro l'abitacolo, seduti fianco a fianco. L'auto si allontana tra spruzzi di poltiglia. Bogdanov si schiaccia contro la portiera e studia quel volto familiare, anche se non lo vede da quasi 20 anni. «Alla fine sono io che ho trovato te», dice Leonid. Lui si limita a riprendere il fiato. L'uomo alla guida non gli degna della minima attenzione. Bogdanov guarda fuori dal finestrino come un passeggero qualsiasi o un membro del governo scarrozzato dall'autista. «Dove mi portate?» domanda. «A casa mia», risponde Leonid con una tranquillità serafica. «Non quella dove sei venuto a cercarmi, la mia vera casa». Oltre il vetro, Bogdanov riconosce la piazza, la facciata barocca piena di finestre, il frontone con l'orologio. Il palazzo della Lubyanka si fa più grande mano a mano che si avvicinano, pronto a inghiottirlo per la seconda volta.